c'è morte che separi il giusto dal giusto. Eri dei nostri, fratello Francesco, tu, uomo giusto. Eri dei nostri, fratello, con i tuoi silenzi, tutti i tuoi link, i tuoi canti. Eri dei nostri, fratello, di sangue, sempre pronto a difendere la libertà in ogni ovunque. Eri dei nostri, fratello, il tuo cuore, sempre a cercare, a seminare amore.